Sì, ciao, mi ascolti? Guarda, ti ascolto molto molto basso, sei in mezzo al QRM e non ho capito chi sei. Franco, sbaglio? Mirko? Come mi ascolti, Mirko? Ti sento con le pinze, ti sto tirando fuori con le pinze. Ci siamo sentiti qualche giorno fa, se non sbaglio, Mirko. Aspetta, provo a cambiare radio un secondino, se ti tiro fuori. Prova un po', Mirko, se con questo ti ascolto meglio. Mi sa che qua è peggio, aspetta, rimetto l'altra. Stai parlando, Mirko? Dammi conferma che se stai parlando. Ci sei ancora, Mirko? Signore Mirko, se mi cuffi? Non so, provo ad andare in FM, se magari riesco ad ascoltarti meglio. Ce l'hai l'FM, Mirko? Ce l'hai l'FM, confermi? Non so se stavi parlando, Mirko, però non ti ascoltavo adesso. Attenzione qua, canale 10, se c'è qualcuno. Che avanti? Non è il trame, ma non mi senti? Adesso ti ascolto, no, stavo ascoltando a Mirko, adesso sono con quello nuovo, con quello riesco ad ascoltarlo, basso basso, ma con 44 non ce la facevo. Sì, tanto che con quel QRM c'è, però sta parlando Mirko, qua lo senti lui. Era da Alghero, però adesso non lo sento più, era Santiago 7, però c'è il QRM quasi 7 io, per cui no, a momenti lo ascolto, adesso non lo sto più sentendo. C'è un sacco di QRM, scariche, c'è questo scirocco di merda. Aspetta, Mirko, ci sei? Basso basso arriva. Sei in mezzo al QRM, Mirko, purtroppo non riesco a tirarti fuori. Poi va a fare qualcosa. Sei in mezzo, sei 7, però ti sento proprio basso basso basso. Vabbè, tu già mangiato, extra? No, adesso verso le 9, ce ne ho. Anche io tra poco mangio, non ne avevo neanche fame, io normalmente mangio 8:30, ma non ne avevo fame, adesso aspetta un pochettino. Ho messo con la radio nuova con l'altoparlante da 9:40, in modo che si senta molto molto meglio di quello piccolino dell'SP23. Quello è, c'è il filtro, c'è tutto, è chiaro che senti molto meglio. Aspetta che sta parlando, dimmi Mirko, sì, adesso sei quasi 9, tra l'8 e 9, mi copi tu, c'è anche Claudio, ti rilascio Claudio l'amico qua. Ciao Mirko, mi senti? Io sto andando un po' in fratte, vediamo un pochettino se rendo in fratte, se adesso mi senti meglio, così come fa, meglio? Adesso va bene, ci avevo 10, ne ho 8 fratte, adesso ne ho messo 30. Va bene, avanti, roba. Ma te è salito il segnale. È già tutto grido. Comunque, claro, questa radiolina è una pizza, è in ricezione, è micidiale. L'ultima? L'ultima. Ma se tu ti fai portare da chi l'esperienza sarà fatta con quel tipo di radio, ti sto dicendo che sei un campione, se tu mi ascolti avrai sempre degli ottimi risultati. E poi sono entrate altre funzioni di lusso, belle belle. È una macchina da competizione, una macchina da guerra, una macchina di ultima generazione, perché è rimasta sempre di ultima generazione. È fatto veramente bravo, bravissimo, non bravo. Però cos'è che il 40 canali è la tua radio, Mirko? Non ho capito. No, già stai andando bene, magari se riesci a sistemare un po' l'antenna, sei quasi 9 dalle parti mie. Stavo dicendo, Claudio, una domanda, ma il DSP di questa radio si inserisce automaticamente? Sì, tutto il DSP. Penso, se leggiti il manuale, penso che si possa disinserire, però è tutta DSP quella. Ok, vediamo un po' se sul canale 10 c'è qualcuno che vuole entrare, se no riprendi tu Mirko. Avanti a te Mirko. Mirko, ho capito cosa vuoi costruire? Sì, ci sono gli estremi su internet, se vai a vedere, io non, la montagna che a me non piace, io uso la mantola da 30 anni, 40 anni, quindi non mi interessa la demanda. La montagna che funziona, ma io preferisco usare la mia. Comunque non so neanche come si costruisce, non so neanche le misure, figurati. Dovresti chiedere oppure andare su internet e guardare le misure. Vai Roba. Sì, infatti come hai toccato su internet, anche se c'è qualcuno qua, c'è Giulio e Luca Flipper, che loro le hanno costruite eventualmente. Se vuoi qualche informazione entri magari un po' più presto, verso le 7:30 e li trovi, ti danno delle informazioni dettagliate. Giulio ce l'ha, lui autocostruita, la usa già da qualche tempo e sta andando più che bene. Diciamo, se metti un'antenna sicuramente migliori tantissimo, considerando che c'è una mezz'onda, qui c'è un'antenna molto molto limitata. ogni tratta, magari nell'arco di qualche chilometro riesce a uscire bene, però come ti allontani un po'. La Game Master c'ha di buono che è un'antenna semplice, leggera, non è un'antenna impegnativa, per cui la puoi mettere anche su un palo senza bisogno di niente. La Mantova, diciamo, è un'antenna un po' più prestazionale, più pesante. Noi abbiamo qua la Mantova, sia io che Claudio, sono antenne di vecchia generazione, però vanno più che bene, qua in 27 vanno alla grande, sia in vicinanza che soprattutto in lontananza. Di nuovo a te Claudio. La Game Master è un'antenna che funziona, ma non mi piace esteticamente. Sembra un paletto maciorino senza nulla, non mi piace. Comunque funziona. Io preferisco usare questo tipo di antenna. Vabbè, ti lascio che pronto la cena, ma già chiamato gli amici. Ciao Mirko, un saluto, grazie per le due chiacchiere. A questi livelli è sempre un piacere fare due chiacchiere. Diversamente preferisco stare in silenzio. Ok, vabbè, già ci vediamo domani che c'è una benedetta che ti devo dire, già passo domani, ok? Ciao, buona serata a tutti e alla prossima, ciao ciao. E io ciao Claudio, ci sentiamo domani, buona carica, anch'io tra poco sacco vado a mangiare anch'io. Di nuovo a te Mirko, cosa che vendo non ho capito, scusa, io non so cosa cerchi in particolare, qua a Sassari c'è la GBC che è abbastanza fornita, sia di componenti elettronici che se vuoi comprare qualche radio c'ha l'ANA 48, l'8001, c'ha qualcosina la tiene, non so se gli siano rimaste delle antenne, e poi c'è Fusaro, lo stesso che anche lui c'ha qualcosa, soprattutto più specialistico in componenti elettronici, e su ordinazione ti fa arrivare quello che vuoi. Ma Langhero, amico, c'è ancora la GBC? Era vicino dietro i giardini, quelli grandi, con la salita dietro i giardini mi sembra, sempre lì è rimasta, non si è mai mossa, e purtroppo questi negozi di componentistica ormai sono alla fame, ormai tutti acquistano su internet, non ripara più niente nessuno, qualche oggetto magari di vecchia generazione, magari qualcosa, se no la GBC infatti sta andando a vendere non più componenti, vende di cose già pronte, dai, di apparecchiature elettroniche da caricabatterie, mi riescono a sopravvivere così con questi caricabatterie, questi adattatori per dire di nuova generazione, per i nuovi apparecchi, diciamo, adattare un vecchio apparecchio con uno nuovo, solo cose così vendono, perché componentistica poco e niente, tutti la maggior parte ordinano su internet. Ho cambiato radio, guarda si è cambiato anche il segnale, questo lo spinge un pochettino di più Mirko, e questo è un po' più performante come radio, il segnale è cambiato qualcosa? Mi ha detto, scusa, ripeti Santiago, non ho capito. Ho cambiato nuovo, scusa, purtroppo c'ho il correme altissimo qua, sono disturbato, se lo vuoi ripetere, perché non ho capito, non è radio, parlo di Santiago. Ah, no, ho capito bene, 7:30, no, tu stai arrivando a Santiago 9, per cui lo vedi che l'antenna che conta tanto. Mi avevi detto, se non sbaglio, la zona, però non mi ricordo, da dove stai modulando tu esattamente? Sì, adesso mi ricordo, me l'avevi detto, non mi ricordavo, dai. Ok, io sono sicurissimo che è presente e che tu mi stai arrivando 9 in quelle condizioni, se tu metti l'antenna arriverai almeno 9:10, 9:15, perché Alghero superano il 9:10 quando hanno una buona posizione, una buona antenna. Ma è basso, il palo che c'è tu è basso? No, ma dico, l'antenna è in alto, sei in un condominio, in un palazzo o sei in una casa singola? Dai, sicuramente metti un'antenna, già con quella Game Master, quella che hai parlato tu prima, sicuramente migliori tantissimo, una 5 ottavi, diciamo abbastanza performante, qua ce l'ha qualcuno e l'ascoltiamo molto molto forte e non possiamo dire niente. Naturalmente non è una Mantova, ma però si dà da fare anche quella. Quelle canne da pesca, se vengono realizzate bene, anche io ne avevo fatto una a un quarto d'onda, però quando stavo giù al mare, ti posso dire, era meglio della Mini Grand Plane, c'erano prima la Mini Grand Plane giù al mare, e quella era di faceva molto molto 10-0, diciamo, detto volgarmente, rispetto alla Mini Grand Plane, che era lo stesso un quarto d'onda, andava più che bene. E di Larghero comunque ci sono altri radiamatori di altri CB, e c'è Carlo, lo stesso, lui arriva molto molto forte Larghero. Va bene, ok, adesso però amico, io ti devo lasciare perché devo andare a mangiare, magari ci sentiamo in altre occasioni, senti anche prima, e normalmente dopo le 7, quell'ora lì, 7:15, c'è sempre qualcuno qua sul canale 10 da Sassari, e poi ci sono qualcuno anche sul 23, ma diciamo il canale dove siamo di solito qua, noi è canale 10, se vieni ci fa sempre piacere ascoltarti. Ti auguro una buona serata, un buon proseguo di serata e buona carica se devi farlo. Io faccio correti, ciao ciao, Roberto ti saluta.